La sesta qualità è l'acquisto di un certo equilibrio nella vita o imperturbabilità. Il discepolo si sforza di conservare un'equilibrata serenità, così nel dolore come nella gioia. Perde l'abitudine di oscillare fra una gioia esagerata ed una depressione mortale. La sventura ed il pericolo lo trovano corazzato, quanto la gioia e la prosperità. I lettori di opere scientifico-spirituali trovano ciò che è stato descritto nelle sei qualità che chi aspira all'iniziazione deve sviluppare in sé. Qui occorreva esporre il loro nesso con il senso animico del fiore di loto a 12 petali. La disciplina occulta può anche dare speciali indicazioni che accelerano la maturazione di questo fiore di loto, e anche qui la formazione regolare di quest'organo sensorio dipende dallo sviluppo delle qualità sopracitate. Se non si provvede a questo sviluppo, l'organo risulta deformato. In tal caso, con lo svilupparsi di una certa chiaroveggenza, le suddette qualità possono volgersi al male anziché al bene. L'uomo può diventare particolarmente intollerante, pauroso, contrario al suo ambiente. Ad esempio, può arrivare a sentire i sentimenti delle altre anime e, di conseguenza, allontanarsene od odiarle. Può giungere a tal punto che per il freddo che gli invade l'anima di fronte ad opinioni opposte alle sue, non sia in grado di ascoltarle, assumendo un atteggiamento ostile. Se a tutto ciò che è stato detto, il discepolo dell'occultismo aggiunge l'osservanza di alcune istruzioni che può ricevere dal suo maestro soltanto a voce, si determina un corrispondente acceleramento nello sviluppo del fiore di loto. Tuttavia, le indicazioni date qui conducono senz'altro alla vera disciplina occulta. Però, anche per chi non vuole o non può seguire una disciplina occulta, riesce utile organizzare la vita nella direzione indicata, perché l'effetto sull'organismo animico si verifica in tutti i casi, sia pure lentamente. Per il discepolo dell'occultismo, l'osservanza di queste massime fondamentali è indispensabile. Se seguisse una disciplina occulta senza osservarle, entrerebbe nei mondi superiori con un occhio mentale manchevole e, invece di riconoscere la verità, andrebbe soggetto soltanto ad errori ed illusioni. Sotto un certo riguardo diventerebbe chiaroveggente, ma in realtà cadrebbe vittima di una cecità maggiore di prima, perché almeno fino ad allora si teneva forte nel mondo sensibile e aveva in esso un determinato appoggio. Ora invece vede dietro al mondo sensibile e vi si smarrisce prima di trovarsi sicuro in un mondo superiore. Potrà magari non più distinguere il vero dal falso e perdere ogni direttiva nella vita. Appunto per questa ragione la pazienza è tanto necessaria in queste cose. Bisogna sempre riflettere che alla scienza occulta non è consentito superare con le sue indicazioni il limite segnato dalla buona volontà di seguire un regolare sviluppo dei fiori di loto. Si svilupperebbero vere deformazioni di questi fiori se venissero portati a maturazione prima di avere conseguito con tranquillità la forma che loro spetta. Le istruzioni speciali della scienza dello spirito favoriscono infatti la maturazione. La forma, però, viene data dal genere di vita descritto. È particolarmente delicata la natura dell'educazione che è necessario dare all'anima per lo sviluppo del fiore di loto a 10 petali, perché si tratta ora di imparare a dominare in modo cosciente le stesse impressioni dei sensi. Per chi aspira alla chiaroveggenza, ciò è specialmente necessario. Così soltanto sarà in grado di evitare una sorgente di innumerevoli illusioni e di arbitri spirituali. In genere non ci si rende affatto conto da che cosa siano dominate le nostre idee, i nostri ricordi e da che cosa vengano suscitati. Consideriamo il seguente caso. Qualcuno viaggia in ferrovia. è assorto in un pensiero. Ad un tratto il suo pensiero prende una direzione del tutto diversa. Si ricorda di un'esperienza avuta molti anni prima e la intreccia con i suoi pensieri attuali. Non si è però accorto che i suoi occhi si sono volti al finestrino e che il suo sguardo si è fermato sopra una persona che somigliava ad un'altra che aveva preso parte all'esperienza ricordata. Ciò che ha veduto non affiora affatto nella sua coscienza. Gli se ne presenta soltanto l'effetto. Crede così che il ricordo sia sorto spontaneamente in lui. Molti casi di questo genere succedono nella vita. Molte cose da noi sperimentate o lette operano nella nostra vita, senza che se ne veda il nesso cosciente. Qualcuno, ad esempio, non sopporta un determinato colore, ma non sa che è così perché un maestro di scuola, che lo aveva tormentato molti anni prima, portava un abito di quel colore. Infinite illusioni poggiano sopra nessi di questo genere. Molte cose si imprimono nell'anima senza penetrare anche nella coscienza. Per esempio, può succedere che qualcuno legga in un giornale la notizia della morte di una personalità nota e affermi di avere già previsto quella morte il giorno prima, sebbene nulla avesse udito né visto che potesse suscitargli quel pensiero. È vero che il giorno prima era sorto in lui spontaneamente il pensiero che quella persona sarebbe morta. Non tiene però conto che un paio di ore prima di avere ieri quel pensiero era andato a far visita ad un conoscente e sul tavolo vi era un giornale. Non lo aveva letto, ma incoscientemente il suo sguardo si era posato sulla notizia della grave malattia della persona in questione. Quell'impressione non era penetrata nella sua coscienza, ma l'effetto ne fu il presentimento.